Terrore a Gerusalemme, scontri in West Bank, escalation di violenza. Sahel, milizie di cittadini contro lo Stato Islamico. Ma sarà una buona idea? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The Jerusalem has been and will always be the capital of the Jewish people, the capital of the Jewish state. Cette coalition internationale va concentrer ses efforts sur la région la plus critique en ce moment dans la lutte contre le terrorisme. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano. Al microfono ci sono io, Giampaolo Musumeci, in squadra Antonio Taglia, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi in regia. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, ormai lo conoscete bene ma preferisco ricordarvelo quotidianamente, per fare domande e commentare sui due grandi temi che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo. Lo potete fare anche via Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz, e lo potete fare su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 è la pagina del programma, lì trovate anche la diretta Facebook. I due temi di quest'oggi sono da un lato il vicino Oriente, in particolare Israele e territori palestinesi, con un attacco molto ragionevolmente terroristico effettuato da un guidatore che poi è scappato, che ha falciato un gruppo di militari israeliani ferendone almeno 12, mentre alla notte ci ha consegnato scontri, almeno 3 palestinesi morti in West Bank, in particolare a Jenin. Alcuni analisti si sono già spinti in là dicendo che questa è la risposta al piano di pace di Donald Trump, mentre Hamas ha chiamato i palestinesi a lottare contro l'esercito israeliano e contro i coloni. Questa è la prima pagina di Nessun Luogo Lontano, mentre nella seconda torneremo, è un po' il nostro pallino, ma la situazione nel Sahel continua a essere sempre più preoccupante. Ne sia la prova la volontà da parte francese di inviare altri 600 militari francesi che si aggiungeranno al già corposo, 4.500 è il numero di personale appunto militare già presente nell'ambito dell'operazione Barkhane, e a questo nuovo fronte contro il terrorismo per adesso locale. Qualcuno già lo chiama jihad glocal, nel senso che è sì locale ma ha delle caratteristiche o delle aspirazioni internazionali. Più avanti capirete meglio a che cosa mi riferisco. Dicevo, mentre in Burkina Faso c'è un foglio, è una proposta di legge, anzi è già stata approvata dal Parlamento, manca solo la firma del presidente burkinabè. Questa legge prevede che i cittadini burkinabè si possano armare, siano sottoposti a un addestramento di 2 settimane circa e diventino assieme all'esercito burkinabè la prima linea contro lo Stato Islamico e Al-Qaeda. Questi temi che tratteremo quest'oggi, 349-238-6666 per voi. Per Valeria Bernardi, la prima cosa da fare, come tutti i giorni, misurare la temperatura. Lo avete sentito anche dai GR, ormai il presidente statunitense Donald Trump può tirare un sospiro di sollievo. Diciamo che l'inizio dell'anno è partito nel migliore dei modi in vista di questa lunga cavalcata che ci porterà alle presidenziali di novembre. Campagna elettorale infiammata e debitamente condita da questa procedura di impeachment che si è risolta, come tutti già sapevano, fatta eccezione, come ricordava Sergio Nava nel GR, da quella defezione illustre Mitt Romney, repubblicano, che ha deciso di votare contro la bandiera del partito. Per Mitt Romney c'era abuso di potere da parte di Donald Trump. Un Donald Trump che ieri, vi riferivamo, aveva fatto il suo consueto discorso sullo Stato dell'Unione e non si era tolto sassolini riguardanti l'impeachment, piuttosto aveva celebrato la sua gestione dell'amministrazione statunitense negli ultimi 3 anni, mentre poche ore fa ha parlato di impeachment e i toni sono stati in realtà anche più pacati di quello che ci si poteva aspettare, anche se un passaggio è interessante, ve lo segnalo, quando dice: la mia famiglia, il presidente, il nostro paese, politici corrotti hanno fatto di tutto per distruggerci. In qualche modo ha, come dire, alluso a una minaccia globale che fosse non soltanto rivolta agli Stati Uniti ma anche alla sua persona, quella di Donald Trump, addirittura alla famiglia. Insomma, davvero si è tolto un sassolino dalla scarpa. Nel frattempo continua il semigiallo in Iowa con quelle primarie democratiche dal sapore retro, quasi vetusto quel conteggio oramai fatto a mano, l'app che è andata in tilt, e gli ultimi risultati, manca davvero pochissimo, ci restituisce un margine tra Pete Buttigieg e Bernie Sanders ridottissimo, 0.1%. Il giovane gay, ex militare, voce nuova, volto nuovo dei democratici avrebbe raggiunto infatti il 26.2%, mentre Bernie Sanders sarebbe al 26.1%. Da qui a novembre naturalmente ci attendiamo ulteriori colpi di scena. Non da ultimo l'entrata in scena, o sul ring se preferite, visto che ieri ci siamo un po' appoggiati, indulgevamo forse un po' troppo sulla metafora pugilistica, ma tant'è, qualcuno, i democratici intendo, ne sono usciti con le ossa rotte dagli ultimi giorni. Detto ciò, Michael Bloomberg potrebbe davvero salire sul ring e lì tentare la sfida alla cintura, al campione, al peso massimo, appunto, Donald Trump. Ci spostiamo, andiamo in Arabia Saudita, perché ha catturato la nostra attenzione un nuovo rapporto redatto da Amnesty International, curato in particolare da una ricercatrice esperta di paesi del Golfo, Dana Ahmed. E questo rapporto accende i riflettori su un aspetto giudiziario, ma non solo, dell'Arabia Saudita, del regime di Riyadh. In particolare questo rapporto va ad analizzare quella che si chiama la Saudi Arabia's Specialized Criminal Court. È sostanzialmente una corte penale speciale, istituita nel 2008 e particolarmente attiva dal 2011 in poi, si pone come obiettivo, in verità piuttosto vago, la lotta al terrorismo, quindi con funzioni di investigazione antiterrorismo. Secondo i ricercatori di Amnesty International, questa definizione giuridica piuttosto lassa, piuttosto vaga, ha consentito al regime di Riyadh di imprigionare molti dissidenti, giornalisti, attivisti per i diritti umani e anche molti appartenenti alla minoranza sciita, che pure vive nel regime saudita, che è a maggioranza sunnita. E poi in particolare, vi ricordate, vi abbiamo dato conto nelle ultime settimane anche di quella operazione di rinnovamento voluta soprattutto dal principe Mohammed bin Salman. Ebbene, questo rapporto di Amnesty sembra mostrare delle crepe rispetto a quell'immagine di, appunto, rinnovamento che il giovane principe vuole dare dell'Arabia Saudita, soprattutto per un tema, il tema delle donne. Lo sapete, finalmente in Arabia Saudita si può guidare, si può ascoltare musica, ma sentite che cosa dice Dana Ahmed riguardo al ruolo di questa nuova, semi-nuova corte, diciamo recentemente nuova corte, e appunto la condizione delle donne in Arabia Saudita. Amnesty ha pubblicato oggi il rapporto sulla Corte Penale Specializzata dell'Arabia Saudita e si è occupata anche della situazione della libertà di espressione. Il rapporto documenta fino al 2019 i casi di oltre 95 persone che sono state processate davanti alla Corte Penale Specializzata, che è la Corte Antiterrorismo. Queste persone sono state processate per aver chiesto riforme sociali e politiche, per aver chiesto maggiori diritti per le donne, per aver partecipato alle proteste con molti altri attivisti politici. I casi delle donne, difensori dei diritti umani, detenute nel paese, non sono stati giudicati da questo tribunale, ma sono stati giudicati all'inizio dello scorso anno da un tribunale penale. Direi che il governo saudita ha fatto progressi, ma nonostante molte delle recenti riforme, la situazione dei diritti umani nel paese è ancora miserevole. Più in generale, queste riforme sono avvenute nel contesto dei diritti delle donne molestate, che hanno richiesto a gran voce cambiamenti al principe ereditario. Anche tutte le mogli dei difensori dei diritti umani in Arabia Saudita sono sotto processo e almeno 5 di loro, compreso un importante attivista per i diritti delle donne, sono ancora in carcere. E finora non c'è stata alcuna indagine sulle presunte torture alle quali sono state sottoposte. Una di loro è ancora sotto processo per il suo lavoro in materia di diritti umani. Quindi queste riforme, che affrontano la situazione sociale del paese, sono di sicuro molto importanti, ma c'è ancora molto da fare per quanto riguarda la situazione dei diritti umani e la situazione di tutti i difensori dei diritti umani, anche le donne che guidano le proteste e che stanno scontando fra i 5 e i 13 anni di carcere per la loro attività. Qualsiasi riforma nel paese sarà priva di significato se prima non si procederà al rilascio di questi attivisti pacifici. It starts with the release of these peaceful activists. La voce di Dana Ahmed, ricercatrice di Amnesty International, esperta di questioni legate ai paesi del Golfo, pone l'accento su un'ulteriore fragilità rispetto alla già vulnerabilità degli attivisti in Arabia Saudita, cioè la condizione delle donne. In particolare il rapporto è andato a analizzare, purtroppo non è riuscito a farlo per fonti dirette perché sostanzialmente è stato vietato l'ingresso agli analisti di Amnesty International in Arabia Saudita, ma sono riusciti a redare questo rapporto analizzando 95 casi, tutta la documentazione giudiziaria che sono riusciti a ottenere e varie fonti indirette, quindi testimoni, famiglie eccetera. Ancora una volta si sottolinea come questo paese stia viaggiando ancora a una doppia velocità, o meglio, se volete, mostri una doppia faccia, a dispetto di un generale endorsement internazionale. L'Arabia Saudita, che è grande alleato degli Stati Uniti, non dimentichiamo che attua politiche quantomeno controverse, anche non solo in politica interna, ma anche in politica estera. Maria Bernardi, giù tutto, è il momento del countdown. Bengasi ha 13 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, non ha più capacità di stoccaggio di gasolio e 4 giorni di GPL. Tobruk non ha più capacità di stoccaggio di benzina, gasolio e GPL. Sebha non ha capacità di benzina e GPL e ha 6 giorni per il gasolio. La National Oil Corporation, la compagnia nazionale libica, chiede la cessazione di questa situazione e chiarisce che la produzione di petrolio sta calando sempre di più, arrivando a quota 187.300 barili al giorno, con perdite di circa 932 milioni di dollari. Questo è il nostro ricco termometro internazionale. Un'ascoltatrice, se vedo bene dell'icona, mi riguardisce. Ho detto redarre, se l'ho detto invece di redigere ovviamente me ne scuso, non c'è dubbio. Un altro ascoltatore: mi sarei aspettato un'intera trasmissione dedicata al mancato impeachment del presidente Trump, così Nicola che ci scrive. Ma guardi Nicola, in realtà ne abbiamo parlato tantissimo. Noi a Nessun Luogo Lontano cerchiamo di stare sull'attualità, ma se possibile, come dire, di, non dico anticiparla, sarebbe arrogante da parte nostra, però cerchiamo di lavorare un filino in anticipo, ecco. E avevamo già prospettato quella che è stata la situazione, gli scenari possibili, quindi oggi non ci restava che nel nostro racconto, se fosse una torta, ecco, spero che sia goloso e delizioso come una torta ascoltarci, mancava la ciliegina. La ciliegina era semplicemente quel voto scontato di cui vi abbiamo dato conto. Per noi le analisi in questo momento finiscono qui. Il prossimo capitolo, credo, per la politica statunitense, a meno di grandissimi colpi di scena, sarà l'ingresso in scena o, se preferite, la salita sul ring di Michael Bloomberg, ma naturalmente seguiremo il New Hampshire e tutti gli altri appuntamenti delle primarie democratiche. Degli altri messaggi arrivati al 349-238-6666 ve ne darò conto tra pochissimo. Prima però dobbiamo tornare a Gerusalemme, perché le ultime ore ci hanno consegnato un'atmosfera nella capitale che non si respirava da alcuni anni. Quello che avete sentito era il suono dei mezzi di soccorso accorsi a Gerusalemme in un quartiere molto frequentato. Poche ore fa, la matrice è quasi sicuramente terroristica, comunque un'automobile si è lanciata a tutta velocità contro un gruppo di soldati israeliani. Non è chiaro, ma sembra che i ragazzi non fossero in divisa. L'attentatore deve averli riconosciuti e ne ha feriti almeno una dozzina, mentre le cronache dal West Bank, dalla Cisgiordania, ci consegnano ancora scontri a Jenin ma anche a Hebron, con almeno 3 morti, tra cui anche un agente della polizia palestinese, sempre a Jenin. Nel frattempo Hamas ha chiamato a nuovi scontri, invitando i palestinesi a scontrarsi appunto con esercito e coloni. Secondo molti osservatori questa è, ma forse non ci vuole particolare lungimiranza per comprendere, si tratterebbe della reazione dal terreno al piano di pace proposto da Donald Trump. Andiamo allora a Gerusalemme, lo facciamo con l'esperienza e la voce di Nello Del Gatto, corrispondente per l'agenzia AGI da Gerusalemme. Appunto, Nello, buongiorno, ben ritrovato. Salve, buongiorno a voi. Nello, la prima domanda è quella di rito che si fa a un cronista che consuma un po' di scarpe, tu lo fai. Che aria tira Gerusalemme poche ore dopo questo attacco che, ripeto, i media israeliani lo danno quasi per certo, è stato un attacco terroristico? stato tutta l'intera giornata nella città vecchia. Devo dire che nonostante anche nella città vecchia. Niente, no, il collegamento, Nello Delgato, ti interrompo perché il collegamento non è buono. Proviamo a ripristinarlo per capire. Avevo intuito, da quello che ho carpito dalle tue parole, nonostante la linea disturbata, sei stato in Città Vecchia a Gerusalemme. Vi sono in particolare alcune porte, penso soprattutto alla porta di Damasco per esempio, ma non solo, che sono state negli anni scorsi epicentro di parecchie violenze, e quest'oggi, ripeto, sia Gerusalemme, il cuore pulsante di quel territorio, ma anche i territori palestinesi hanno vissuto nuove ondate di violenza. Vediamo se... no, ancora qualche istante per Nello Delgato. Allora intanto io torno a quelli che sono i vostri commenti e i vostri messaggi che arrivano al 349-238-6666. Faccio quindi un salto indietro. C'è chi plaude alla vittoria finale di Donald Trump nel processo di impeachment, c'è chi dice che i democratici ne escono assolutamente con le ossa rotte. E poi c'è questo messaggio che è divertente, vediamo. Questo non è male. Oh, finalmente, come il dottor Frankenstein, i democratici hanno realizzato in laboratorio il perfetto candidato con tutte le caratteristiche del caso, così Manuel da Valenza, ma non riesco a capire se si riferisca a Buttigieg o se sia ironico, nel senso che hanno combinato un tale pasticcio. Pensate, ormai a 72 ore dalle chiusure delle primarie in Iowa ancora non abbiamo i dati totalmente definitivi, tutti i candidati sono già proiettati in New Hampshire. Poi c'era un altro messaggio interessante, anche se, come dire, sul filo del sarcasmo, sono senza petrolio, che si buttino sull'eolico o sul solare, ne hanno tanto, così Marco da Ferrara. È però, gentile Marco, qua il problema è che andare a chiudere i rubinetti in Libia vuol dire un grossissimo problema anche dal punto di vista energetico per noi. Quindi, ripeto, starei attento, come dire, a indicare fonti alternative energetiche non soltanto per i libici, quando è un nostro fornitore molto importante. Torniamo a Gerusalemme, torniamo da Nello Delgato. Buongiorno Nello, di nuovo ben ritrovato. Eccoci qua. Sentiate meglio. Adesso molto bene. Mi dicevi, sei andato in Città Vecchia, se ho capito bene. Sì, sono ancora in Città Vecchia, infatti qui non prende benissimo la linea. Sì. E devo dire che oggi è stato abbastanza tranquillo, molti turisti come sempre, insomma, senza nessun problema. L'unica questione è che anche qui in Città Vecchia c'è stato uno scontro, è stato attentato, perché un arabo israeliano da poco convertito all'Islam, quindi un israeliano di origine araba con passaporto israeliano convertito all'Islam, ha sparato nella zona della Porta dei Leoni, quindi non lontano dall'ingresso della spianata, ma non alla spianata, sì, come hanno detto, perché mi trovavo sulla spianata, sì, ha sparato contro un poliziotto ferendolo e i colleghi hanno sparato contro questa persona, quindi diciamo che c'è stato anche nella Città Vecchia un episodio del genere. Sì. La situazione è difficile, nel senso che se uno legge e vive lo sente difficile, se uno però gira nella Città Vecchia di Gerusalemme, vi posso dire, in questo momento c'è tanta di quella gente, nessuno avverte nulla. Sì. Stanotte la cosa tra l'altro è avvenuta poco prima delle 2. Sì. In una zona a 50 metri da casa mia praticamente, in questa zona che è l'ex stazione ferroviaria dei treni che portavano a Tel Aviv, e poi è stata cambiata, è stata modificata ed è diventato un posto di locali e di, sì, ristoranti. Sì. Questi ragazzi uscivano dal locale perché avevano finito, insomma, il loro festeggiamento, perché oggi avrebbero giurato, erano militari, sì, aspettavano l'autobus, quindi erano lungo la strada, non è successo dentro questo luogo, sì, e lungo la strada questa persona si è buttata con la macchina contro di loro, poi pare che la macchina l'abbiano trovata nei dintorni di Betlemme, sì, quindi e Hamas ha rivendicato la cosa dicendo che ce ne saranno anche altri. Sì. Non è la prima volta che succede un attacco del genere, sì, alle fermate dell'autobus nelle volte passate. Sì. C'è 12 feriti, ma uno è particolarmente grave ed è ricoverato, insomma, in gravi condizioni. Sì. Allora, Nello Delgato ci sta aggiungendo un po' di particolari a quelle che sono le notizie che arrivano da Gerusalemme e dai territori. Un ascoltatore, sempre Marco da Ferrara, dice: dove sarebbe la news? Attentato a Gerusalemme, sono 70 anni che se le danno. Gentile Marco, il punto è che innanzitutto l'attacco pare mirato, nel senso che sembra che Hamas, anzi sembra, ha chiamato a colpire, a bersagliare sia l'esercito israeliano che i coloni, e arriva poche ore dopo l'ennesimo rifiuto da parte non soltanto della Lega Araba, ma di tanti come dire, organizzazioni o rappresentanti del mondo arabo del piano di pace voluto da Trump. Il rischio sotto traccia, il rischio sotteso evidentemente, che nessuno si augura, è che si scateni, ci sia un'escalation di violenza e che questi atti di violenza appunto possano replicarsi anche in altri luoghi di Israele. Nello Delgato, se mi posso permettere, certo, non soltanto Hamas ma anche il presidente palestinese Abu Mazen ha detto che questo piano non esisterà e tutti i palestinesi devono dare il loro sangue per questo piano, quindi in effetti anche lui ha chiamato una sorta di jihad contro, contro il piano di Trump. Addirittura ha detto che questo piano morirà poco prima di che muore Trump, insomma. I toni sono molto alti rispetto a questa situazione. Ecco, toni molto accesi che non lasciano presagire tantissimo di buono. Nello Delgato, da osservatore privilegiato, ormai frequenti quei luoghi da parecchio, vedi segnali di una possibile escalation? Non voglio pronunciare quelle parole ormai che insomma diventano terroristiche, insomma intifada eccetera eccetera, però tu vedi come dire un filo rosso che lega questi episodi con un target molto preciso, insomma una pianificazione, per dirlo in altri termini? Allora, una pianificazione sì, ma è difficile al momento che ci possa essere un'escalation per una semplice ragione, che tutti stanno a guardare quello che succede dal punto di vista politico, da una parte e dall'altra, perché ognuno sta aspettando che capitino le elezioni sia in Palestina che in Israele, e tutti quanti stanno ritardando. Considerate che domenica ci doveva essere un incontro a Gaza da parte di funzionari dell'OLP e di Fatah, invece questo è stato rimandato. Netanyahu ha fatto un comizio elettorale ieri e ha detto che l'annessione della Valle del Giordano avverrà soltanto dopo le elezioni, sì, che è una cosa che tra l'altro aveva chiesto anche Jared Kushner. Sì. Quindi insomma per ora sono degli atti. Da Gaza per esempio si stava cominciando a parlare di una tregua con Hamas, con Israele, eppure negli ultimi giorni comunque sono stati lanciati sia i famosi palloni gli ordigni, sia dei razzi, e c'è stata una risposta di Israele. Quindi diciamo che è un'escalation nella normalità, perdonatemi la frase forte, visto che non può essere la normalità quella di uccidere persone, però è la normalità di questo luogo purtroppo. Certo. E questo rende la cosa ancora più complicata, perché alla fine chi parla con chi? Cioè c'è un voto, ieri passo sui media palestinesi, ha passo un sondaggio che dice che oltre il 68% della popolazione non vuole Abu Mazen. Netanyahu ha i suoi problemi anche all'interno della sua coalizione con i coloni che non vogliono assolutamente questo piano. Insomma, siamo in un momento storico nel quale davvero mancano gli interlocutori per poter parlare. Sì, insomma, Anello del Gatto ci consegna una situazione ancora una volta estremamente complessa, un problema di leadership, di legittimazione, di una certa fragilità da una parte e dall'altra, e un momento di attesa, perché poi il 2 marzo sono elezioni importantissime evidentemente. In calce ho letto un po' di giornali israeliani, si parlava di questa freno a mano da parte di Netanyahu sul piano con Kushner, insomma il suo dialogo con Kushner come sostanzialmente una frenata improvvisa, forse anche in chiave elettorale, staremo a vedere. Nello Delgato, corrispondente da Gerusalemme per l'agenzia AGI, buona giornata e buon lavoro e grazie come sempre. Grazie a voi, arrivederci alla prossima volta. Allora, un po' di ascoltatori al 349-238-6666, un altro ascoltatore ribadisce dov'è la novità, anche il mio gatto avrebbe previsto una reazione con attentati davanti a questo piano di pace, così scrive Enrico, però attenzione Enrico, perché Nello del Gatto ci ha appena consegnato una realtà un pochino più sfumata, un po' diversa, forse quell'escalation che qualcuno teme non ci sarà, perché si cerca di stare a bocce ferme, tenendo la tensione abbastanza alta, ma a bocce ferme almeno fino alla possibile rielezione di Benjamin Netanyahu o di Benny Gantz. Chissà, non preoccupatevi, Israele sa bene come difendersi, così fa replica un altro ascoltatore. Sam ribadisce e replica i due precedenti, quello di Trump non è un piano di pace. Ma forse lo status quo non dispiace a nessuno, Israele comanda comunque e i gruppi palestinesi potranno sguazzare nel torbido more solito, lucrando sulle sofferenze della popolazione. Così un altro ascoltatore, io adesso direi che facciamo una piccola pausa. Andiamo a sentire come vanno le borse e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... Che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Apriamo la seconda pagina di Nessun luogo è lontano. Senza prima, voglio darvi conto però di un po' di tanti messaggi, tanti commenti. La questione israelo-palestinese continua a accendere gli animi. C'è chi dice Hamas, organizzazione terroristica ineliminabile. C'è chi mi fa i complimenti perché chiamo coloni degli usurpatori, così Marcello. C'è qualcun altro che dice non è un piano di pace, semina zizzania e qualcos'altro. Cosa di diverso poteva esserci con un piano di pace fatto tra alleati senza sentire i nemici e con i nemici che si dovrebbe fare la pace, se no è seminare zizzania, così un altro ascoltatore. Ma allora qua evidentemente c'è un problema di nomenclatura, io uso il termine colono che deriva dai documenti anche delle Nazioni Unite, vengono chiamati settlement, colonie, vengono chiamati settler. Poi dire usurpatori è già una connotazione, una denotazione. Io ho una mia personalissima idea sulla questione israelo-palestinese, appena accennata, pur frequentando quei luoghi non ho certezze manichee, ma siccome la mia opinione non è così rilevante né richiesta, cerco di restituirvi quella che è il dato di fatto, quello che sta accadendo, con la neutralità e la correttezza maggiore che mi è possibile. Un ascoltatore addirittura ha scritto che non ha trovato notizie di questi scontri, dei 12 militari feriti, sui siti. Invito l'ascoltatore o a aggiornarsi sui siti più corretti o a frequentare, per esempio, potrebbe ascoltarci, su questo non c'è dubbio, perché sicuramente siamo molto proiettati all'estero e questo non ci piove, però abbiamo sentito da un reporter di prima mano, Nello del Gatto, quello che è accaduto, e ci sono tratti di gravità assolutamente in quello che sta accadendo in questo momento. Detto ciò, fatemi cambiare continente, andiamo in Africa, andiamo nella zona del Sahel, perché lo dicevo in apertura, si stanno aggiungendo tasselli a quella che è una situazione che noi stiamo denunciando ormai da parecchi mesi, quello che abbiamo chiamato un vero e proprio buco nero nel Sahel, ben 5 paesi coinvolti, migliaia e migliaia di combattenti jihadisti. Per fare una distinzione molto sommaria potremmo dire che ci sono dei figli dello Stato Islamico e dei figli di Al-Qaeda, ognuno di loro ha una sua agenda, a volte sul terreno si scontrano, ma di sicuro hanno un nemico che è lo straniero. Sono le chiese cristiane, sono gli stati, quindi l'apparato amministrativo statuale e gli eserciti dei 5 stati coinvolti. Buongiorno, ben ritrovato a Nessun luogo lontano a Camillo Casola, analista di ISPI, esperto di Sahel. Camillo, buongiorno. Buongiorno. Camillo, grazie per essere con noi. C'è un ultimo tassello a questo benefico ingrediente, un benefico cocktail, scusate, che si sta miscelando ormai da mesi e da anni in quell'area, che è la proposta di legge a cui manca ormai solamente la firma del presidente burkinabè, che sostanzialmente prevede che i cittadini, semplici cittadini burkinabè, potranno arruolarsi in questa milizia di autodifesa, riceveranno un addestramento pare di un paio di settimane, un'arma, e poi potranno far parte della prima linea contro gli attacchi jihadisti. Prima di sentire la tua opinione, Camillo, ti proporrei di andare lì sul terreno, andiamo a Ouagadougou, con la voce di Maureen Yamoge, giornalista burkinabè, che dirige la testata online Wakat Sera. Quali sono le reazioni a questa nuova legge? Sentite. De façon générale, il faut dire que cette loi a été votée. Prima di tutto, a linee generali, bisogna dire che questa legge è un'iniziativa del Parlamento ed è stata votata dai deputati. Ma questa norma aveva provocato un po' di polemiche ben prima di finire alla Camera dei Deputati. Molte persone si sono sollevate per dire che questo tipo di reclutamento non ha nulla di normale, perché sono le forze di sicurezza a occuparsi delle questioni relative alla difesa. E le forze di sicurezza hanno già altri problemi senza doversi occupare anche delle conseguenze penali e civili e soprattutto della formazione di una milizia. Dopo, tuttavia, sono intervenute le spiegazioni del ministro della Difesa e del portavoce del governo, che hanno sottolineato come la formazione non si limiterà ai 14 giorni indicati, ma sarà una formazione continua. A partire da questo momento il dibattito si è fatto più tranquillo, ma siccome le elezioni si stanno avvicinando, in Burkina Faso si voterà a novembre, si è anche detto che la creazione di queste milizie sarebbe servita in realtà a portare più giovani nell'orbita del partito al governo. Avete appena sentito la voce di Moren Yamogbe, giornalista burkinabè, direttore del giornale online Wakat Sera, che ha posto l'accento anche su tutti i risvolti politici, come in Israele e Palestina si aspettano le elezioni, anche in Burkina Faso c'è sempre quell'appuntamento elettorale che può scatenare e innestare nuove dinamiche. Camillo Casola, analista di ISPI, esperto di Sahel, una delle notizie che abbiamo dato è un nuovo contingente, 600 uomini che vanno a unirsi all'operazione Barkhane francese. Ha avuto successo quel vertice a Pau tenuto da Macron con il cosiddetto G5, che ha detto: ci accettate o non ci accettate? Se ci accettate lavoriamo insieme contro i terroristi, io mando altri uomini. Quindi pace fatta in sostanza. Non so se è possibile parlare di successo, nel senso che i risultati del vertice di Pau erano abbastanza scontati in termini di conferma dell'impegno francese e dell'impegno degli stati partner saheliani. Certo è che il cambio di direzione che si è verificato a distanza di qualche settimana tra quanto era stato deciso a Pau, cioè l'invio di ulteriori 220 militari ad integrare la forza francese Barkhane, e quanto invece è stato annunciato non più di qualche giorno fa dal ministro della difesa dell'esercito francese Florence Parly, che ha parlato invece dell'invio di 600 unità supplementari ad integrare il dispositivo di Barkhane, sì, è sicuramente qualcosa di significativo. Qualcosa di significativo che probabilmente si ricollega anche al fatto che, a quanto sembra, la volontà del presidente americano Trump di alleggerire in qualche modo la presenza militare americana in Africa e in particolare in Sahel pone la Francia in una posizione sicuramente difficile e complessa, perché il sostegno americano alle forze francesi, soprattutto in termini di logistica, è estremamente importante e ne va dell'efficacia dell'intervento delle operazioni militari francesi nella zona. Sì. Quindi sicuramente ci sarà, la Francia avrà avuto dai partner saheliani rassicurazioni su un rafforzamento del loro impegno. Sembra che anche, soprattutto il Chad, che è conosciuto come quello chadiano è conosciuto forse come l'esercito più efficace della regione, se non della macro area sotto, al di sotto del Sahara, garantirà un impegno maggiore nella regione delle tre frontiere al confine tra Mali, Niger e Burkina Faso, dove si concentra oggi sia l'instabilità legata all'attivismo dei gruppi jihadisti, sia le operazioni di controterrorismo della Francia e degli eserciti regionali. Ma è ancora tutto da vedere quanto questo diverso impegno possa essere, insomma, foriero di una diversa efficacia rispetto a quella che si è avuta sinora, diciamo. Certo, la voce e l'analisi di Camillo Casola, che non manca di, come dire, sottolineare quelle che sono state, non dico i fallimenti, però, come dire, la non perfetta efficacia. I dati purtroppo ci consegnano, parlando solo del Burkina Faso, almeno 500.000 sfollati. Adesso andremo meglio nelle pieghe di quello che sta accadendo nei cinque paesi. Gli attacchi sono stati tantissimi negli ultimi mesi, decine e decine di morti, ve ne abbiamo dato conto più volte qui da questi microfoni, nessun luogo è lontano. È bizzarro, tra poco facciamo una pausa, poi torno da te Camillo Casola, che vi sia, come dire, un annunciato e potenziale vuoto statunitense, anche se alcuni vertici del Dipartimento di Stato hanno tenuto a precisare che ridurre un pochino le truppe non vuol dire ridurre esattamente l'impegno, ma tant'è, fa parte della logica americana in prospettiva. Mai più per sempre poliziotti del mondo e ovunque. Dicevo che questo vuoto debba essere gioco forza riempito da maggiori truppe francesi che hanno molti interessi nell'area, ma da queste entità un po' bizzarre, a volte, come dire, un po' naif e anche folcloristiche. Per esempio i gruppi burkinabè si chiamano Kouleogo, io ne ho visti alcuni in altri paesi, a volte ho assistito a scene veramente bizzarre, non mi viene un altro aggettivo, gente con archi e frecce, con fucili artigianali fatti di ferro, con corde che andavano a caccia di islamisti o potenziale terrore. Con quali conseguenze? Andiamo a sentire la viabilità e poi ve le racconto. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Quest'oggi, in questa seconda pagina di Nessun luogo è lontano, abbiamo viaggiato fino nel Sahel, un'ampia zona, quella che fa da cerniera sostanzialmente al Nord Africa, all'Africa subsahariana, una zona complice la fragilità statuale di tanti appunto stati presenti e la debolezza degli eserciti, ha permesso il risorgere di tanti gruppi jihadisti, si sono affiliati chi più chi meno allo Stato Islamico, chi ad Al-Qaeda, hanno vari obiettivi in comune, altre per altri aspetti le agende sono assolutamente invece divergenti, differiscono per esempio, ma banalmente sugli obiettivi e su quanta estrema è la loro visione dell'Islam. A questo però si aggiungono tanti altri motivi di interesse in quello che noi abbiamo ribattezzato il Califfato Nero, forse estremizzando ma dicendo attenzione, mentre ISIS ormai stava per esalare l'ultimo respiro in Siria, ma poi il ritiro americano non ha contribuito a dare il colpo finale, mentre ISIS nominava il successore di al-Baghdadi, i nostri occhi si volgevano invece al Sahel, perché lì ci sono opportunità per gruppi terroristici, con conseguenze che per il momento nessuno può prevedere. Un ascoltatore al 349-238-6666, di recente un articolo della rivista Reed, credo sia la rivista Italia Difesa, riconduceva molte tensioni alla radice etnica e economica con i Mossi, che è una delle tribù che marginalizzano i nomadi fulani, che è un'altra tribù, per prendersi terra, acqua e risorse pubbliche, creando così il substrato ideale per il reclutamento estremista. Confermate, chiede così un ascoltatore. Allora, a leggere anche altre analisi, in particolare ho trovato molto interessante quelle di Mathieu Pellerin, che è un analista dell'International Crisis Group e anche di un gruppo di ricerca di relazioni internazionali francese, ha fatto un'intervista con RFI, Radio France International, il servizio francese, ha detto che sostanzialmente la benzina principale per questi gruppi è l'esclusione sociale, la marginalizzazione delle varie comunità, la permanenza tutt'oggi, pensate, di condizioni di schiavitù a tutti gli effetti, il racket di una tribù verso l'altra, insomma, complessità di dinamiche e di tensioni. Vi faccio sentire, prima di tornare da Camillo Caso, l'analista di ISPI, ancora la voce da Ouagadougou di Maureen Yambogué, giornalista burkinabè che dirige Wakat Sera. Sentite che cosa fanno sostanzialmente questi gruppi di autodifesa che in lingua locale si chiamano Kouleogo. I gruppi Kouleogo tradizionalmente si sono costituiti per la tutela dell'ambiente, ma recentemente si sono trasformati in gruppi di autodifesa in un senso più ampio. Si permettono di andare a fermare la gente per giudicarla. Agiscono al di fuori dell'attività della giustizia ordinaria. Si sono sostituiti alle forze di polizia e alle autorità giudiziarie. L'attività di questi gruppi ha causato diversi problemi. Delle persone sono rimaste ferite e ci sono stati anche dei morti. La voce di Maureen Yambogué e anche il suo racconto direttamente dal terreno, lo sapete, in questa trasmissione Nessun luogo lontano amiamo alternare lo zoom o l'obiettivo macro se preferite, quindi entriamo nelle storie e poi invece il grandangolo, quindi l'analisi affidata quest'oggi a Camillo Casola che studia da anni la situazione nel Sahel. Camillo, rispondendo all'ascoltatore, citavo un tuo collega francese che attribuiva a una situazione socio-economica molto delicata la facilità di reclutamento. Due domande che poi sono una, diciamo, da un lato A, se sei d'accordo, B, quanto è pericoloso questo reclutamento che a questo punto è trasversale, perché quando tu vai a reclutare giovani che vivono con $20 al mese, che sono poveri, che non hanno speranza, che non hanno mai visto una città, questi possono essere più o meno musulmani, più o meno radicali, è una potentissima leva, mi sembra di capire. Certo che sì. Allora, rispondendo, partendo dall'ultima sì. delle tue domande, io penso che questa sia una dinamica assolutamente pericolosa, incredibilmente pericolosa. La legge votata dal Parlamento burkinabè per la costituzione di questi volontari di difesa della patria, votata all'unanimità peraltro, rischia di attivare un circolo vizioso incredibilmente pericoloso, proprio perché non è raro vedere gruppi di autodifesa che, per rispondere alle violenze di milizie, di insorti, di gruppi jihadisti, si rifanno in qualche modo sulle popolazioni civili, facendo leva sulla loro appartenenza a un gruppo etnico specifico, come nel caso dei Peul, che rappresentano spesso sì. il principale nucleo etnico di il principale ma non esclusivo sì. nucleo etnico di reclutamento da parte dei gruppi jihadisti. Basti pensare poi a quello che è accaduto anche in altre zone della regione, con la milizia Dannambassagu, che si è resa responsabile un anno fa del massacro di circa 160 civili, sì, sì. civili Peul, quindi una dinamica davvero estremamente pericolosa. Sì. E per rifarmi invece alla prima delle sì. sollecitazioni che proponevi, e ti prego di essere sintetico, che siamo quasi in chiusura, sì, Camillo. Penso grazie. Che uno dei fattori fondamentali che è stato citato, forse meno degli altri, sia quello dei deficit di governance statale. Cioè, quando si parla di assenza dello Stato, si fa riferimento all'incapacità dello Stato di provvedere a determinati bisogni essenziali e di essere in sì. qualche modo Stato. Sì. E spesso è su questo vuoto che si innesta l'azione certo. di questo genere di gruppi. Insomma. Certo, è chiarissimo. Camillo Caso, l'analista di ISPI, grazie mille per essere stato con noi, per la consueta chiarezza e precisione. Buona giornata, buon lavoro. Per completezza di particolari, quando Camillo Caso la fa riferimento alla fragilità statale, dovete immaginare per esempio nessuna spesa pubblica per le strade, dovete immaginare che non esistono reti di corrente elettrica, che ognuno deve comprarsi un generatore, dove non esiste acqua potabile, dove l'esercito magari non è esattamente efficiente, dove la polizia è corrotta e magari chiede tangenti ai capovillaggio. Insomma, una situazione che è ben lontana dagli standard occidentali a cui siamo abituati. Ancora una volta però, anche se apparentemente lontano, questo luogo può diventare una fucina di formidabili combattenti, possono addestrarsi lì per anni e combattere per anni, come è successo per l'Afghanistan per esempio, e senza creare inutili allarmismi, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, potrebbero anche viaggiare, potrebbero muoversi. Dubito che, data la loro appunto natura molto global, come qualcuno ha detto, quindi affiliazione a grandi brand internazionali, Al-Qaeda e ISIS, ma obiettivi molto locali, dubito, dicevo, che ce li potremmo trovare in Europa. Ma tant'è, la destabilizzazione di quel pezzo di Africa nuoce tantissimo, non soltanto agli italiani presenti, agli europei che ci lavorano, alle economie e ovviamente in primis alle popolazioni locali. Sugella al 349-238-6666, questo sentore, un ascoltatore che dice si rischia di entrare in una sorta di far west, liberi tutti, è esattamente questo il rischio. Da ultimo, manca davvero poco, fatemi però menzionare il fatto che i tantissimi rapimenti che vi sono stati negli ultimi mesi, soprattutto in Burkina Faso, hanno coinvolto anche due italiani, una decina in tutto gli stranieri, questo per darvi una misura della pericolosità di quei territori. Prima di chiudere, io tornerei alla voce di Moren Yamongbe, il giornalista burkinabè che dirige Wakat Sera, questa testata online, e vi farei sentire in buona sostanza quella che è la risposta alla domanda principe. Anche se noi armiamo dei civili, anche se permettiamo a, come dire, truppe un po' scombinate di imbracciare magari fucili artigianali, di darsi da fare con arco e frecce, e succede, magari non in Burkina Faso, ma li ho visti, ve lo garantisco, quanto sono efficaci contro milizie jihadiste che magari hanno una guida algerina, che si rifanno alle gesta benefiche di un tizio di nome Mokhtar Belmokhtar? Sentite. Non abbiamo ancora avuto prove del loro apporto positivo nella lotta contro gli jihadisti. Ci sono piuttosto le testimonianze della popolazione rurale che ci dice che con i miliziani Koglogo le condizioni di sicurezza sulle strade e nei villaggi sono migliorate. Ci sono meno furti, ci sono meno criminali e bracconaggio. Ma nella lotta contro il terrorismo non ci sono ancora statistiche che dimostrino l'efficacia di questi gruppi contro gli jihadisti. Ci sono stati casi isolati, ma non ci sono prove concrete. Questa è la voce del collega burkinabé. Prima di lasciarvi al order nostro che segna la fine di questa puntata, rispondo al volissimo un ascoltatore che voleva sapere chi fosse il successore di al-Baghdadi. E tale Abubi Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi è nato in Iraq, ma in realtà è centroasiatico, e questo è un motivo di interesse. Ma stiamo preparando una puntata speciale proprio su ciò che resta dell'ISIS, ed è uno dei responsabili, pensate, del massacro degli Yazidi. Detto ciò, avevo promesso una parola. Che lancia i titoli di coda che servono a ringraziare tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Voi che siete stati all'ascolto, l'appuntamento è per domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.